10, c'è qualcuno all'ascolto? CQ10, c'è qualcuno all'ascolto? Ale, la grandine. Ecco, per cambiare. Buonasera, avanti, chi chiama su 10? Partito tu viene, ma non si viene, ma si scusci dal nord della Sardegna. A cane, gusto gusto. Allora. Scusa. Entra in tu, no. Sei. Così è. Vabbè. Ciao Luca, ciao, sono ritornato a casa, che sto facendo guanciale. Come sei così in basso, ti? Sono dall'altra parte della casa. Mi ascolti lo stesso? Dalla 25. Positivo, frate. Che Luca, qua, ma intanto. Lo so, alle orecchie sempre, respirato delle orecchie a me. Ciao, ti. Che vero, produsa. Me l'ha detto Tino a me. Vabbè ragazzi, dai, ci sentiamo più tardi dopo a casa, che sto finendo qua e poi niente, rientro, rincaso. Come è finito? Come è finito? È finito? Prima che piova, che il cielo è tutto nero, La buccia. Ciao Tino. Io qua cuore. Mica lo dica a Curto, ti faccio morsicare, mi. Come lo fa morsicare la pedivella? Ti faccio morsicare la picchiriola. Ah, che cucca, tutte un po' come te. L'ho visto sotto al ponte con lo spinello conficcato nella zampa. Ma è vero. È vero. Cazzo, tu baracchino non vedi nessuno proprio, è un mostruggio, Luca. Tu? Me lo mandi il link del corso per radiamaturi che ti ha mandato Roberto, per cortesia. Aspetta, ve lo cerco, aspetta. Che bag è, beh. Babbo, ciao. Gianfranco, ci sei? Gianfranco. CQ10. Stavo cercando Gianfranco, sentito lei. Negativo. Per il momento non ho sentito, solo a Luca e a Tino. Gianfranco negativo. Va bene, grazie Natalino. Prego. Stai ascoltando per caso sull'R7 Alfa, Natalino? No, ce l'ho spento il ricevitore, stavo ascoltando qua. Se vuoi accendo, non c'è problema. Ecco, adesso è acceso. Ma è sull'R7 Alfa? Altrimenti la 525, anche sto facendo, sto provando una radio nuova con il microfono da tavolo e voglio sapere se funziona bene. E parla che si blocca. Com'è? Non si è bloccato ancora. Se tu non parli non si bloccano. Se non parla non vuoi bloccare, hai bisogno dei buoni lo scanner. Blocca la 525, no? Ah. È che ce l'ho in alto, tocca, aspetta un attimo, lo blocco a 5.25. Poi lo rifai andare lo scanno, poi c'è la Bodri a 5.25. Sto provando una radio nuova e voglio vedere se esce bene. Anche col microfono da tavolo, suo. Ci sei? Dai, ci sono. Com'è Natali? Ma io non ho sentito nulla. Qua. Cioè, non esce. Aspetta. Forse per quello non si è bloccato. Radio ottima. Ma non c'è Claudio che Natali mi sta derubendo come c'è con WL, c'hai anche l'attestato. Ecco se ne aspetta che parlo con lui, aspetta. All'altro lo sento. È pulitissima. Claudio. Attenzione Claudio. Eia, va bene come radio? Sì, normale, una radio normale. Ho dovuto cambiare l'antenna perché quella della finestra non prende. Già mi ho ordinato la X30, adesso come piazzo l'antenna ci metto la X30 sopra. Vedrai che ricevo tutti. Lo so, lì in quel vicolo è un casino con le antenne di macchina. Sì, puoi mettere una X30, vanno molto bene. C'è la differenza tra me e Andrea come modulazione? La metà. Cosa? Buonasera a tutti. Allora, se se n'era, era 10, 2 e 5, non è la tua radio solita. Perfetto, molto bene, hai fatto bene a dirmi, adesso lo prendo, lo tolgo, lo rimetto davvero e metto l'altro amplificato, grazie. Sì, fermo restando la comprensibilità, ma sul ricevitore addirittura ho dovuto aumentare il volume e poi quando parlava Andrea la passavo, ecco. Questo è il parere sia su Roiaesu sia su un altro apparato grosso. Va bene, sto già facendo l'operazione. Ok, un attimino. Ok, ciao Natalie. Ciao Gianfranco. Adesso già mi arriva l'altra antenna, così sento bene. Comunque adesso già sto ascoltando perché praticamente già ricevo adesso. Ho dovuto cambiare antenna perché quella della finestra, Claudio, non arriva. Sull'altro arrivava, vabbè che quello là è generoso, lo via Gesù, per carità, arriva a fondo scala, sul ricevitore non è neanche controllato. Comunque era la metà della radio dell'altro che stava parlando, quell'altro era un ben amplificato a confronto a Claudio. Sì, ma siccome la voce di Claudio notoriamente è una tamburlana, una tromba, anche un microfono normale dovrebbe essere potente. Sei tu Claudio? No, tutto un altro pianeta, tutta un'altra cosa. C'è la ventola con l'apparecchio? Sì, quando schiacci parte la ventola, sì, è un 100 watt, questo è chiaro che deve partire la ventola. Va bene, va bene. La modulazione è tornata la mia. Già sei tu, adesso sì che sei tu. Devi fare da bravo, già sei tu. Pulita senza rumori, però c'è un abisso rispetto a quella là. Quella là era molto strana, non era la tua timbrica. Lo so. Vabbè, stavo provando il microfono. Ottimo per la truppa. Ok, dai. Rimango un attimo in QRX che lo rimetto a posto. Va bene, quindi il microfono che va bene lì è l'MC60. MC50, non spinge l'FM. Va bene, ok, a dopo, ciao, grazie. Ok, io me ne vado a mangiare. Ciao Natalie, ci sentiamo dopo. Ciao, se stai mangiando, gira, mangio pure io. Infatti, così dopo non ci pensi. Ciao Gianfranco, ciao Claudio, anch'io me ne passo in QRX, così posso cenare. Ciao Natalie, grazie del controllo, vai. A frappè, ciao a tutti e due. Oh, ma da te fuori freddo, cioè qua ce n'è da strizzare le gambe. Ci sono 6 gradi qua, fuori. Dentro casa ne ho 20, 21, 23, 24 ancora, ma ho acceso poco la caldaia. No, io lo tengo, io adesso ne ho 21 con la pompa di calore attaccata, ma mandarla oltre no, se no esci fuori ti fulmina, ti prende un accidente. Ok, dai, ci sentiamo dopo se ci sei. Io mi sto un po' allargando il VNU, se ogni tanto vi fate sentire è meglio, ok? Stiamo attivando nuovamente un po' il VNU. Va bene, ciao Gianfranco, ciao Natalino. Diciamo che mi viene un po' male, per esempio tipo che lo sai, quando io sono in radio in qualsiasi momento sto facendo anche altra cosa e quindi mentre qua posso lasciar perdere di là devi sempre rispondere. Ok, a dopo. Va bene, anche a te che ciao. C'è qualcuno su 10? Che? Natalino Alfa 1. Ebbene, questa antenna presa l'abbiamo. Ehi, ce l'ho qua l'antenna già. La X30 me l'ho ordinata da internet perché qua non hanno nulla. E poi ne aveva una ma la voleva 76 euro. Quello lì. Cacchio Natalino, non ci ho pensato, avremmo detto a quello che mi ha ordinato la roba io, che c'ha dei prezzi, guarda, più di 20 euro ho risparmiato rispetto agli altri negozi, anche di più, anche 30. E già l'ho presa, dai, 51 euro l'ho pagata. ma l'avremmo detto a questo amico qua, questo di quella maschera, quello di Roma, che è un buon gamba, spedisce subito, gli fa la ricarica e immediatamente ti fa la spedizione. E vabbè, ormai è ordinata, no? Mi arriverà fra 2-3 giorni. L'X300 ti hai preso? No, quella piccolina ho preso. La X300 dove me la metto? Ce l'ho in campagna la X300. E non era piccola l'X300? No, c'è la X50, la X30, capito? Io mi ho preso la X30 che è piccolina, la devo mettere sul palo dell'antenna, capito? Che piazzo tutto assieme. Sì, no, no, stavo confondendo, volevo dire X30, non X300. E la X300 in tre pezzi è lunga. X30 mi sembra quella che ho io, non è quella l'X30, quella che ti ho fatto vedere io. O è la X30 o la X50 quella che hai tu. Faccio bene. E buonasera cavaliere Gianfranco, avanti. Finito ora di mangiare e di ascoltare cose assurde, ma insomma, se così il mondo gira. Allora, come si presenta la situazione? C'è il compare Natalino che te lo mandava, andiamo avanti Natalino. Ci siamo sentiti anche poco fa, Gianfranco. Ciao Gianfranco, ben rientrato. Sì, mangiato? Tutto fatto. Bene, così almeno siamo tranquilli stanotte. Cosa volevo dire? Vabbè. Allora, vabbè, funziona tutto? Sì, no, non funziona niente. Perché anch'io ogni tanto ho qualche problema con qualcosa, con quel programma là. Poi sto leggendo e molti stanno lamentando e insomma devono aver combinato qualche pasticcio là. Ma io è che adesso non c'ho il computer, ma domani se capita te lo faccio vedere nel mio computer, cazzo. Perché nel mio computer funziona quella pennina e c'ho un altro SDR Sharp HD si chiama. E prova a trasferirlo lì. Lì ti dice che è incompatibile, mentre l'altro è compatibile, non ne capisci tu. Sono identiche, solo che una quando si accende c'ha la luce verde e l'altra la mia c'ha la luce azzurra. Poi adesso che sei qua, Gianfra, ieri mi hai detto di prendere un adattatore, siccome non ho l'uscita seriale, quel PC nuovo che ho preso, un adattatore da seriale a che cosa? Da seriale a USB, no? È una normale porta seriale USB, praticamente è una, che te posso dire, è una DB6, no DB9 scusa, che ha 9, se femmina tra l'altro è meglio perché così si adatta anche all'affare, ma penso che siamo tutti maschi mi sa, perché anch'io avrò utilizzato l'adattatore, ma l'adattatore ce l'hai a proposito. Sì, ti devi prendere solo quella cosa USB lì, si chiama seriale, ti manderei anche una foto, una cosa, ma comunque va bene così già. Ce l'hai un email radioamatoriale? Ce l'hai uno? Un email radioamatoriale? No, non ho fatto ancora niente, Gianfra. A me tu WhatsApp non ce l'hai? No, capito, ho detto tu là? Non ho fatto ancora niente, devo attivare tutto, sto aspettando ancora questa autorizzazione, non so se te la danno o è silenzio al senso, niente ne sa di questa azione. Ma a te non ti hanno dato il nominativo perché? Sì che mi hanno dato il nominativo, mi hanno dato anche l'AREC, la dichiarazione AREC, perché prima la concessione te la davano fisicamente e invece adesso ho sentito che non arriva più, silenzio al senso, tu mandi questa dichiarazione dicendo che apparati c'hai eccetera eccetera e loro se ci sono problemi ti rispondono, se no è silenzio al senso, vedi questa storia. Oh, è la prima cosa che sento. La dichiarazione degli apparati, il governatore può usare qualunque apparato militare, civile, perché track, autocostruito, l'importante è che rispetti le norme delle telecomunicazioni e che stia sulle sue frequenze. Poi di questa cosa di dichiarare apparati, ma mi sembra più CB che altro. No, no, è nuova, la nuova normativa. Naturalmente puoi scrivere apparati commerciali e autocostruiti, ci puoi scrivere, invece è scritto di indicare gli apparati posseduti, se li puoi mettere è bene metterli, mi hanno detto che è bene metterli, non è obbligatorio, nel senso puoi mettere che c'è anche per dire, un 140 e poi ne hai 10 di apparati, perché poi non c'è bisogno di integrare niente, è soltanto una cosa pro forma. Molte volte qualcuno scrive la cosa adottata, la trattano di apparati commerciali e autocostruiti, puoi dire. Dovrei fare un elenco lungo. Allora, 5 apparati Rotesvart, 4 Kodans, 23 barre, 40 Itera. Ma c'è Rotesvart perché? Non ricordo se erano 4 o 5, sia l'ultimo uscito. Che è il penultimo. Ma di cosa parlerò del spazio? Di che cosa stiamo parlando? Ho ricevuto. E allora, quegli strumenti a livello che usano anche per il monitoring, quelli lì. Ma analizzatori stai parlando lo del SWAT, non stiamo parlando di ricevitori. Ricevitori, ricetrasmettitori, c'ho anche altri due della Leonardo Selex. Ma perché la lo del SWAT fa normalmente apparati da laboratorio di misura e apparati super professionali, parliamo per uso broadcasting e cose, cioè poche persone se li permettono i trasmettitori professionali della Rode Schwarz, è il topo del topo. Adesso il gruppo è Tera, quindi costano di meno. Domani sì, c'ho le brochure, tutto quanto, ne ho un po', capito? E quando voglio vedere gli apparati me le apro e non costano neanche tanto le brochure. Allora l'ho trovato, allora esiste direttamente l'adattatore, che tra l'altro ieri lo stavo guardando su internet e costava più di quello dei cinesi, perché Amazon l'ha preso, mio nipote l'ha pagato 9 euro e magari di qualità sarà sicuramente superiore, io l'ho pagato 2,90 euro con l'adattatore, e c'è anche quello dei contatti dorati, poi non so se sia verniciati, però sono, i contatti sono dorati, l'ho pagato 2,90 euro l'adattatore da VGA a DVI. Adesso qua c'è su internet, c'è direttamente l'adattatore, oppure ti danno il cavo con l'ingresso, allora deve essere maschio da una parte così e dall'altra parte USB, Gianfra. No, ho capito neanche, comunque poi me lo rispieghi un po' più lentamente, perché il mio cervello sta diventando vecchio e quindi non ha più la velocità di fare ragionamenti veloci. Natalino! Appena ne ha l'occasione Natalino scappa, perché ogni tanto appena vede che non piove sale sul tetto a mettere un tassello, un qualcosa, guarda. Aspetta, io sto guardando una fotografia, aspetta un secondino Gianfra, che forse ce l'ho questa trattore da RS-232 a USB, così stai dicendo? Sì, da porta seriale a USB. È una cosa banale, sempre che non sia di 10 anni fa, se no col cavolo che Windows 10 lo accetta. La seriale è detta comunemente RS-232, confermi? Ci sono, buonasera. Buonasera, sì, confermo. L'importante è che siano 9 pin, che è quella che va, perché poi quelle vecchie ne avevano quanto, 25 credo, neanche me lo ricordo più. Ma penso che non esistano più. Eugenio, buonasera, ben entrato. Buonasera a tutti. Sono che faccio un lavoro e sono qua. Sono Roberto di Cucci. Ebbene oggi, tutto bene, ha preso detto non dovrei passare l'altro giorno, ho detto forse ha avuto problemi, scusa un attimino Gianfra, mi dà una risposta del genere. No, nessun problema, che volevo fare prima una commissione da pulire, poi da pulire che sono andato via all'1:20, qualcuna cosa del genere. Poi sono sceso a casa e niente, ho preso il campo e sono andato in officina da me. Ho fatto un'officina da me, quindi ho risolto alla grande. C'erano le cose mollate, le cernierette mollate, non quelle U, ho montato la porta proprio, c'erano le cerniere mollate. Vabbè, l'importante è risolto, dai, meno male, non c'è problema. Ok, Gianfra, guarda quella roba lì, forse ce l'ho già pronto quel cavetto. Riprendi tu Gianfra per Eugenio. Sì, siamo qua. Eugenio, si sente anche dalla voce che sei, come si dice, non stanco di più. Guarda, Giacca, oggi non ho neanche mangiato, sono entrato adesso, quindi sto aspettando mia moglie e mi chiami che mi ha preparato la cena. Niente, come mi chiama vado subito perché ho una fame. Sto resistendo a non mangiarmi il microfono. Non deve avere un buon sapore. Con questo tempaccio, sta entrando un brutto tempo, eh. Ancorate le antenne, perché sta entrando un maestrarone da paura. Domani non parto neanche le navi, né da Genova né da Porto Torres. Sì, vero che ce la faccio da Chihuahua. Ciao Chihuahua, e allora? E se non ascolto, sto operando da altre parti, c'è anche Gianfranco, c'è Roberto, c'è tutti. Sì, riprendo io, ciao Club, hai sentito. Vai Gianfranco. Sì, ci siamo sentiti anche poco fa con Claudio. Comunque, tutto risolto qua. Occhio che c'è un allarme di vento. Sì, è che ha giù antenne a 70 metri io. Io la più alta è a 4,50 metri. La GEPRO l'ho tolta, perché l'ho fatta quello di Cagliari, l'altra nuova non è ancora fatta, quindi no. Non ho problemi di vento. Non ho problemi di vento, va bene così. Ma speriamo che sia una cosa così tranquilla. Che non ci tocchi. Avanti Eugenio. No, volevo ringraziare comunque Roberto per la disponibilità, grazie Roberto stesso. No, siamo amici o nemici Eugenio, non c'è problema, non ti preoccupare, che ringrazio, certo. Quando si può fare non ti preoccupare, sono sicuro che necessità da parte mia anche tu saresti stato uguale. Sì, vabbè, comunque grazie lo stesso. Ragazzi, ci sentiamo tra un po', che stanno andati a un mosso a qualcosa, perché sto svenendo. Dai, ci sentiamo dopo. Giaffra, scusate il monopulio, Giaffra, RS232 maschio è uscita, USN ce l'ho già il capo. Ah, va bene, vedi, se lo riconosce, lo puoi anche testare. Aspettate 5 minuti che mi ha chiamato mia figlia, dai, proseguite voi, scusatemi un attimo. Sì, dunque, Natalino. Oh, yeah, dimmi Gianfra. Ti ho visto... Ah, perché stai usando la torcia quando sali su? Perché candele non ne avevo. Bravo, sì, così se ne accorgono. E poi ho visto che sei già salito in pigiama, ma quando mai? Non ti bagni? Fregatene. C'ho anche la mantellina, non hai visto? Io. Andiamo bene. Stai attento a non metterla quell'antenna sull'antenna di un altro. Poi domani mattina te ne accorgi, arriva, mannaggia al buio. E non sto fuori. In punta gli ho messo la bandiera nera, col fischio. Ci sarebbe da farglielo a quelli lì. Aspetta quando la vedono. Non solo il TV, ma anche i citofoni adesso li disturberai. Anche l'apparecchietto della pressione. Quello è grave. Oi. Già ce n'è poco di gente qua, sta in giro. Ma... quindi... niente. Adesso mi spengo da fare perché qua ci sono già 22 gradi. Il troppo fa male. Anche qua 22. E comunque ho visto che non consumano molto questi, questa pompa di calore. Devi fare da bravo. Sono tutte sovradimensionate, quindi le devi tenere accese un pochino e poi spegnere. C'è qualcuno ancora? Chi è? Roberto. E beh, Gianfra. Sì, scusa un attimo che stavo ascoltando una cosa. Vieni avanti. Aspetta, ce l'avevo qua, siccome sono tante cose io che poi me le dimentico pure, sono aperto il cassetto, ho detto mica c'è una 230, 232 con uscita USB. E quindi cos'è, femmina o maschio l'uscita? Allora, dove attacco, diciamo, il 232 è maschio. Quindi ci fa un quel competitore là per farlo femmina. Ma scusa un attimino, perché quell'apparato non è femmina? No, no, è maschio. Il 2000 è maschio, l'avrei anche controllato l'altra volta. Di norma sono tutti maschi. E c'è l'apparato che tu mi avevi dato, è quello che c'è tu? Certo che sì, è quello grigio. Da una parte c'è una presa dall'altra che non ricordo il nome. Un secondo, non lo vedo subito. Allora, quello che aveva, eccolo qua, non ci avevo fatto neanche a caso, scusa. Mi attacco direttamente allora, no, fermo a tutto. Aspetta, scusa. Allora, c'era l'adattatore, mi ha fatto anche l'adattatore, ma non ho dimenticato, mi si è fatto toccare, che non è, quello grigio era l'adattatore, non l'avevo visto. Sì. Cosa volevo fare? Non me lo ricordo più. Quindi va bene? Sì, sì, è perfetto. Adesso non sto inserendo un apparato, sono stato anche stupido perché lo dovevo lasciare attaccato e attaccarmi direttamente dall'altra parte del campo. Infatti, può rimanere anche attaccato. Era così una costruzione grezza, perché pensavo ce l'avessero i cinesi, sicuramente ce l'hanno, ma sono io che non li ho visti, se no non lo sarei preso, proprio perché io non ne ho più porte seriali, gli apparati sono più USB oramai. No, l'apparato è collegato, adesso devo attaccare al computer. Là c'è quel programma. E vediamo un po' che succede. Ma sono andati via tutti quanti, Gianfra? No, Claudio è in VHF sull'R7 Alfa. Poi c'è Paolo da Olbia e Domenico. Io a Paolo, che l'ho sentito anche in diretta, tra l'altro anche Domenico. Ci vanno bassi, ma si sentono bene. Da che porta è molto raso? No, quello la restata è a Itiri. Cioè da Itiri ti riescono a collegarsi con Olbia? Sì, e ci riesco io da qua. Adesso non so se lui mi sente, perché non ho capito bene che potenza sta usando. Mi è sembrato di capire 5 watt, ma se lo sento con 5 watt vuol dire che l'antenna sta facendo miracoli. Perché la 300, l'ex 300 c'è sul taliccio. Oh, si è aperto già direttamente TeamViewer, direttamente senza toccare niente. E vuol dire che l'ha impostato di aprirsi all'avvio del PC? Io non ho impostato neanche, magari per errore, non è che sia pratico, ho detto. Se lo vuoi ci spostiamo sull'uno di nuovo, Gianfra. Dai, una questione veloce perché oggi non abbiamo, eh. Assolutamente che sì, velocissimo, così mi dici se funziona. Esecutivo. Beh, non c'è nessuno qua. Cristiana Anna.